attenzione, canale 10, c'è qualcuno in ascolto. Chi è? Q10. Anthony Bambolino. Chi è? Capra. Canale 10, c'è qualcuno? Allo. Chi è, avanti? Chi vuoi che sia in questa valle di lacrime? È ormai abbandonato canale 10. Qua è tutto a posto, vedo. Vabbè, non c'è vento. Vorrei vedere una prossima ondata di maestrale. Se si manifesta qualcosa. Mi stavo soffiando il naso, che caspitina. Sono raffreddato, perso. No, io niente. E la tosse poi per altri motivi. Adesso voglio vedere con un altro maestrale qua se si verifica qualcosa di anomalo. Ah, ok. Stiamo misurando quel carico fittizio con il nano VNA. Eia, praticamente uno sta a uno. Come? Cosa hai detto, Marco? Che c'è quel cazzo di televisore che mi sta disturbando? Ma cuffia non ne hai? Cuffie adatte? Già ce le ho, ma è tutto un casotto qua, che bisogna mettere tutto a posto. Ho detto, uno sta a uno? Ehi, ha tutto a posto, dai. Ho controllato sia nella carta di Smith che nell'SWR, dai. È diluso, poi l'ho controllato anche col tessero. Perché mi devo misurare anche quel rosmetro che c'ho, per vedere se dice la verità. Ehi, non è entrato nessuno, no? Dei soliti, no? Beh, con questa TV alta non ci capiamo, da. Questa? Ho detto, con questa TV alta non ci capiamo, tu non capisci me, io malapena sento te. Sì, che ci capiamo, cosa non ci capiamo? Hai detto, il mic originale non ce l'hai più, o non funziona? No, ce l'ho, lo devo cercare, già ce l'ho il mic normale. Raccontano quel momento, un momento indimenticato. Dovrei averlo qua. Adesso lo cerco e me lo installo. È successo qualche giorno fa. Tanto ci vuole 5 minuti. Fai con calma. Marco, questo è il microfono normale, bene va. Beh, certo, rispetto all'altro è un po' leggermente citofonico, però almeno sento la tua voce, non la TV. Ok, adesso gli ho messo il microfono normale, così togliamo tutti i cosi di merito, dai. Ecco, adesso sto conservando il nano VNA. Ecco qua, e così almeno siamo a dama. Ecco, il carico fittizio ce l'ho messo, tutto ok. No, ma qua vedo che c'è una ventola che non sta girando, stranamente. Cosa vedi? Una ventola che non sta girando. Ah, no, mi si è staccato un filettino, vai, Nora Mara, vai, pazienza, dai. Comunque la TV c'è allo stesso volume, c'è un abisso e la TV non la sento più. E quindi è meglio col microfono normale, da? Sì, se no è un caos, cioè quando sei da solo è un conto, no? Che spegni la TV eccetera, però con la TV è uno scandalo. E purtroppo c'è mia moglie qua, quando sono da solo gliela spengo la TV, almeno posso modulare tranquillo, da. E parli con muro. Ciao Antonè. Ciao Marco. Ascoltate attentamente questa modulazione, ditemi se sono saturo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Forte e chiaro per me, buonasera Marco, Antonello e Natalino. Uè, ciao Carlo, salutoni, buon Natale, buon Capodanno, buon tutto. satura comunque Marco, ti sento benissimo. Anche io ti sento bene, non sei saturo Marco, vai bene. Sì, ciao anche a Carlo, ben entrato, no, sto facendo una verifica mia, adesso è salito di nuovo, vedi l'SQR. L'altra volta surriscaldato l'ineretto e stavo uscendo saturo. Adesso le stazionarie così, con uno schiocco sono salite a 1 e 1,5, dai, 1,5. 1,5 anche 1,6, così, se c'è qualche falso contatto nell'impianto. Comunque vabbè, allora lo spengo, dai. Sì, spegnilo quel lineare, non ce n'è bisogno Marco. Ci sentiamo anche troppo bene così. Eia, adesso poi lo levo proprio, lo levo proprio dopo. Ah Natali, guarda che ti avverto che qua deve venire il maresciallo, quindi appena arriva farò quello di urgente, ce lo sai, no? Adesso ti metti a lavoro in corso, mi così impari. Ah no, sono convalescente, non posso lavorare. Ciao Carlo, entra, buonasera. Eccoci qua, buonasera. No, vi ho sentito adesso acceso, perché anche io ero scollegato, perché con i lavori avevo staccato il cavo. Adesso l'ho ricollegato e già sembra che stia andando tutto per il meglio. La modulazione mia dovrebbe essere sempre la solita, 5 watt, e io vi sento bene tutti, e Marco forse è chiaro e limpida la voce, non è satura. Natalino idem, Natalino da quando ha cambiato l'antenna sembra qua dietro casa mia, e niente, così oggi sono di riposo e domani riprendo di pomeriggio. Ciao Carlo, ben sentito. Cata, io stavo inciampugliando e mi ho costruito un carico fittizio da 250 watt, è di lusso. Vi ho mandato la foto a Marco pure a farglielo vedere. E insomma, sempre sperimentando Natali. E cosa vuoi fare? Tanto se la gente non entra qua, eccetto qualcheduno, e stavo inciampugliando, me ne sono andato pure a pescare stamattina. E hai fatto bene, perché era una bella giornata oggi di sole, per cui che hai preso un po' di aria di sole, quello non guasta, dai. Di sera rinfresca un pochettino, però tutto sommato freddo, freddo, freddo non ne sta facendo. E infatti, sono andato lì e almeno mi sono divertito un po', invece di stare chiuso in casa. E beh Antonello, già il guidi senza sentirti, raccontaci qualcosa anche tu. Vabbè, non sei antenna, già lo sai. Adesso mi hanno regalato questa Mercury, mi hanno regalato, sto usando la Mercury. E la matta vado scesa giù e c'era il polo centrale del PL completamente fuso in pratica. Quindi adesso devo risistemarla, devo cambiare il bullone che parte dall'interno della manta e va all'esterno, perché è leggermente rugginoso, quindi cambio tutto, le rondelle e poi la ripiazzo di nuovo sopra. Meno male, sono stato fortunato e l'antenna è come nuova in pratica, non c'è bisogno neanche di staccare i battini. Ho lavorato subito tutto, radiali, quando c'era, l'ossido, ho visto che c'era pochissimo, mi do una passata di spazzola e poi la ripiazzo di nuovo sopra. E ho capito, ogni tanto ci vuole un po' di manutenzione, le antenne sono così, ossido e quant'altro, ogni tanto fa fare qualche capriccio, per cui vabbè, però già stai uscendo bene, qua già sei in alto e per cui mi arrivi molto bene anche con l'antenna che hai. Marco, invece tu cosa mi racconti, sei casalingo oggi? Forse solo oggi, allora ti spiego. Il 24 siamo andati in trasferta da un parente per dormire lì 3 giorni e farci Natale, Vigilia, Natale, Santo Stefano, se non che il 25 all'alba sono stato male, sono svegliato a brividi da battere i denti, ho fatto in tempo a arrivare in bagno, ho fatto questo mega vomito, ma da uscire negli occhi. e poi da lì capogiro, una fiacchezza, una stanchezza fisica fuori dal comune, come se fosse un'influenza, magari era proprio un attacco influenzale, solo che non ha preso né naso, né gola, né polmoni, né niente. Ma guarda, ho passato a febbre a 40, febbre a 40, non avevo mai avuto la febbre a 40 da 40 anni, l'avrò avuto quando avevo 2-3 anni la febbre, a quei livelli. Anche perché io ti spiego, Carlo, sono refrattario alle influenze, nessuno mi prende mai, se non di striscio proprio con i mal di gola, così, questa sera influenza era tremenda. Stavo pensando anche a un'intossicazione alimentare, però precedente alla cena delle, perché tutti stavano bene. Guarda, un inferno. E poi il capogiro si è aggiunto, forse per la debolezza e ce l'ho ancora, quindi sono bello ritirato in casa, al caldo. E questo Natale è nato così. Un Natale da ricordare, anzi da non ricordare. Rivendicarlo. Vabbè, dai, è importante che è recuperato. No, sta tranquillo perché ho sentito altri casi come il tuo. E praticamente ci sono due tipi di influenza. Uno prende virus intestinale e quindi fa o diarrea o vomitare, eccetera. Poi debolezza, fiacchezza, quelle cose lì. E dura quei 3-4 giorni e poi ti devi un pochettino riprendere. Però dovrebbe passare tutto. È importante da che ormai ne sei venuto fuori, anche se ti ha scombussolato il Natale, però di fronte a queste cose non ci puoi fare niente, capito? Io lo stesso a Natale, pensa, il giorno di Natale ho lavorato dalle 8 del mattino sino alle 16, praticamente ho pranzato a lavoro il giorno di Natale, perché ero di turno in videosorveglianza, ci sono un sacco di malattie, tutti con l'influenza, stiamo facendo doppi turni, anche l'altro giorno avevo libero riposo, mi hanno fatto rientrare dal libero ieri, quindi ho solo un giorno adesso riposo perché avevo fatto la notte, quando fai la notte hai smontante, libero riposo, invece mi hanno fatto fare smontante e poi sono dovuto rientrare senza, mi hanno tolto il libero che poi me lo fanno recuperare, capito? Mi daranno un altro giorno. Però c'è mezza Italia tutta a letto con l'influenza, quindi hai compagnia, Marco. E allora è vera questa cosa che mi hanno detto, che c'era mezza Sassari inficiata, chi c'aveva il collega con 40 di febbre, chi con tosse forte, anche Natalino stesso mi pare ha detto che ha dolori muscolari e roba del genere, forse anche mal di gola, mi ce lo confermerà lui. Natalino, vai. No, io sono solo raffreddato e boh, ma sono già 5 giorni così. E sono anche uscito oggi, me ne sono andato a pescare, vanno già in casa. Ah, magari solo un po' di infreddatura, ma non influenza, là, se no non saresti riuscito a uscire. Antonello, gira, vai per il mic per te. Cappa, no, io influenza niente, meno male. Sto bene, sto bene. Almeno su quel fatto sto bene. Ho ingrassato forse qualche chilo, potrei mangiare palettone, questa roba lì, questa roba qui. Adesso devo stare a dieta, devo stare. Va bene, se vi interessa, stanotte ad Alghero c'è Pecchegno, non so chi sia, però mia figlia deve andare lì. Pecchegno, boh, mai sentito io. Ho visto che c'era Antonio Bobo, stavo piazzando il coso, ma non so se era Alghero o se a Sassari, boh, il palco. Allora, la notte di Capodanno a Sassari c'è Renga con Neck, invece a Coso c'è Ligabue, ad Alghero, a Cagliari c'è Marco Mengoni, poi c'è gente anche a Castelsardo, ma è roba per i giovani, capito? La figlia Freddu a mezzanotte, mia figlia ha 18 anni, per cui lei se lo può permettere. Anche io quando avevo 18 anni uscivo e non sapevo quando rientravo, però a prendere freddo, solo che andare va in pullman e poi quando finisce il concerto mi ha chiesto se vado a prenderla, vabbè, tanto in macchina freddo non le prendi, ti accendi il riscaldamento, intorno a mezzanotte, mezzanotte e mezzo, l'una dice che dovrebbe terminare e vabbè, dai, per i figli si fa questo ed altro. A te il mic, Marco. E Marco si è spostato evidentemente. Ho capito, neanche io l'ho sentito qualche volta nominare questo, non mi ricordo si chiama Luis Pequeño, qualche cosa così, e più un altro gruppo, non so che cosa. E a Sassari so dello spettacolo di Capodanno, diciamo la notte di San Silvestro, però ho visto che in Piazza d'Italia ci sono passato ieri, ho visto che c'è il palco e davanti lì al palazzo della prefettura, capito? So che c'era l'albero, ma lo hanno già tolto, mi sa, per mettere il palco, capito? Però non so se ci sono altri gruppi i giorni prima, capito? Lo sai che non lo so neanche io, se c'è qualche gruppo che canta stasera, non lo so, ma non penso. Allora, tirata lì. Aspetta, mi tocca stare con questo microfono in mano, va in Norabona. Perché c'è la televisione accesa, se no se metto l'altro si sente più la televisione che io, da. Vabbè, quella è luce, che è una cosa. Purtroppo è così, non ci puoi fare niente. Io sono col microfono amplificato e col 3009 in questo momento. Sì, vabbè, mi ho dovuto mettere il microfono da palmo, da. Perché sennò Marcolino sentiva più la televisione che a me. E con tutto che bassami, però si amplifica un bel il microfono e si sente. Mi sovramodula la televisione, capito? Già lo so, già. Ho fatto la domanda di inclusione o Natali. Non me l'hanno dato, non ho ricevuto nulla, mi hanno fatto firmare solo questi quattro fogli, mi è arrivato il messaggino che in pratica è stato registrato, però manca il pad. E quindi adesso bisogna che aspetto il 7 o l'8 quando apro questo capo, che c'è andato in fine, c'è andato, grazie. E io ho fatto tutto, ho fatto lo stesso. Il pad lo devi fare, e poi dopo 120 giorni devi presentarti agli assistenti sociali, se no te lo bloccano. Occhio. Adesso devo aspettare il 7 per il pad. Capito, assistenti sociali, vabbè, ci potrei andare anche. Se sono aperti martedì o mercoledì, vabbè, io sono già andato alle sedi sociali, comunque sono già loro carico, c'ho il foglio, mi è stato rilasciato il foglio che sono in carico loro, sia io che Simona, quindi sono a posto. No, prima devi fare il pad, quello è l'attivazione digitale, ci vuole quello, se no non ti controllano la domanda l'INPS e non ti bagano, compreso. Spero solo che quel capo apra il 7, sono fregato. Io ho provato stasera, vabbè, non c'ho speed, non c'ho niente per poter centrare, quindi, ma con la telefonina è un casino, se no me l'avrei fatto io, ma ci vuole lo speed, ci vuole, anzi, ci vuole per forza il coso, perché non mi hanno lasciato manco ricevuto né niente, non so il numero del protocollo. Adesso spero solo che siete riaprano questi e che mi facciano questo coso digitale, questo pad. E poi chiamo la sede sociale, chiamo quella che mi sta seguendo e glielo porto. Ma fatti lo speed alle porte, perché senza lo speed non possono entrare nell'affare tuo, e non te lo possono fare il pad. Fatti lo speed, Antonio, vai alle porte e te lo fai. Sono già andato alle porte l'altra volta e non sono riuscito a cavarne i piedi, hai capito? Gli ho dato il numero del telefono, 340, eccetera eccetera, il coso dell'email, nulla da fare, non hanno cavato piedi. Che vuoi che ti dica? La carta d'identità elettronica ce l'hai? C'è la carta d'identità, quella che mi ha lasciato il comune a me, capito? Ma quella elettronica c'hai? O quella di carta? No, quella elettronica c'ho. E allora devi prendere la busta che ti hanno dato, dove ci sono i codici della carta d'identità, e vai con quello lì. E entrano con la carta d'identità invece che con lo speed, capito? A me mi hanno fatto così perché lo speed mio non funziona più e non mi fa entrare. No, aspetta, io ho fatto la carta d'identità, quella plastificata ho fatto, non quella elettronica, quella plastificata, hai capito? Plastificata, ti hanno dato una busta che ci sono dei numeri. Il comune. No, non ha dato niente a me il comune. Mi ha fatto solo la... questa cosa qua. Aspetta, forse ho capito cosa sei. Un certificato me l'ho lasciato con la fotografia mia piccola in questo foglio. Quando avevo fatto la domanda per la carta d'identità lì al comune. Guarda che c'è il PIC, il PIN e il PUC in quel foglio lì. Vai con quello, così possono riuscire a entrare, se no non puoi entrarmi, perché vogliono le ultime quattro cifre del PIN per farti entrare. Se no non ti fa entrare, maledizione. È un casotto per il padre, se non hai o lo speed o la carta d'identità elettronica. Oppure al patronato si collegano loro e ci fanno tutto loro, anche se tu non ce l'hai. Perché io ho fatto così per l'assegno unico, che me l'avevano bloccato, e mi è arrivato il messaggio dall'INPS e praticamente che mi dovevo rivolgere al patronato. Sono andato lì, mi hanno fatto tutto loro e alla mia situazione accedono loro, capito? Tu gli dai il nominativo, il codice fiscale, fanno tutto loro, però devi andare al patronato, non al CAF. Il patronato ti fa tutto. Comunque io vado al patronato, non avevo mai chiesto a me speed o cosa del genere, ma hanno fatto tutto loro il patronato. Anche quando ho fatto il reddito di cittadinanza e cose del genere. Questo se l'hanno già loro, non mi hanno mai chiesto a me di speed di nulla. E vai a vedere se te lo fanno. A me mi hanno chiesto la carta d'identità elettronica perché volevo lo speed prima, ma io non ne avevo, perché non mi funziona a me lo speed come a te, e quindi è entrata con la carta d'identità elettronica. Ho capito. Comunque io proprio non mi hanno preso nessun documento, hanno fatto tutto loro l'altra lì, e mi è arrivato il messaggio e ci vuole solo quello, il fax. Questo vabbè, il 7 vediamo, ci vado e se l'angelano loro, lo vuoi dire io. Perché se non fai questo FAD non te la controllano neanche la domanda, capito? Già lo so, c'è scritto se non vado se non faccio questo FAD lo devo rifare nuovo il FAD in pratica, quindi bello casino. E c'è un altro casino pure, che dalla carta quando ti pagano ne devi togliere tutti i soldi, se no te lo bloccano immediatamente, capito? Tutti i soldi dalla carta immediatamente? E chi è cazzo? Vabbè, è meglio così, ne togli tutti i contatti come prima, che dovevi lasciarli tutti dentro. No, devi farti la spesa e togliere tutti i soldi, perché è rimasto com'era nell'RDC, solo che è cambiato, nel senso che c'è tu là, c'è soldi nella carta nuova che ti daranno, e lo bloccano e non ti danno di più. Hai capito cos'è il discorso? A me mi ha avvertito quella lì che è un casotto, questo assegno di inclusione. Aspetta, io mi sembra di aver sentito oggi, se non mi ricordo male, che in pratica se tu lasci dentro i soldi non vengono eliminati, a quanto sembra, hanno deciso così adesso. E in pratica teniamo la carta di reddito di cittadinanza perché c'è il suo giorno naturale di scadenza, e mi sembra che è l'11-24 se non mi ricordo male. A me mi ha detto quando ti pagano tu gli dai tutti i soldi, se no ti bloccano tutto. Mi ha detto così, a non lasciare i soldi nella carta. Ci proverò, se me ne fanno togliere. È successo solo una volta, per sbaglio, che sono andato lì alle poste. Prendo e scrivo 140 e me li ha dati. Ho detto che strano, ho detto, oggi non è uno, no? E c'è di provare. Ho fatto il saldo e c'erano rimasti 500 e qualche cosa. Avevo 500 e mi ha dati 500 tutti in contanti. E mi sono lasciato 70 euro che c'era. Di via all'interno. Dopodiché il mese dopo invece non mi hanno dato niente, mi hanno dato solamente 140 l'uno e basta, di più non me l'ha dato. E succedono casi ultimi, è quello che ti voglio dire, ti annullano la domanda proprio se lasci i soldi nella carta, mi capito? È per quello che ti ho avvertito, perché quella tipa me l'ha detto, occhio a non lasciare i soldi nella carta, se no ti bloccano tutto e non te ne danno più. Fallo così, se non li lascia vuol dire che non ne ha necessità e ti bloccano tutto. Può darsi che sia così. Dici che fanno così. È diverso dal reddito di cittadinanza questa roba qui. Fanno di tutto per togliertelo. Sì, no, è l'INPS è veloce. Pensa che io prendo l'assegno unico con mia moglie, no? Prendiamo l'assegno unico per mia figlia. Come ha compiuto il 1° di novembre 18 anni, ci è arrivato il messaggio che l'assegno unico l'avevano bloccato, ci davano 157 euro ogni mese. E quindi per riattivarlo devi fare una dichiarazione, ti devi recare presso un non un CAF ma un patronato. Quindi sono andato al patronato e me l'hanno fatto lì in un attimo e ho visto che per un mese non l'ho preso e questo mese ne sono arrivati due, quello del mese successivo, quello del mese che mi avevano bloccato e quello del mese in corso, me ne hanno dato due tutti insieme, però me l'hanno abbassato perché come compi 18 anni te lo abbassano, capito? Da 137 a 90 euro al mese. Però l'INPS è veloce a fare queste cose, maledetti. Sì, infatti, l'ho avvertito per quella, Antonello, perché quella signora mi ha avvertito e me l'ha detto, mi occhio quando ritirate l'ADI che ve la bloccano se lasciate i soldi nella carta. Prima di scadere il mese deve essere vuota la carta, se no te lo bloccano. Ma si possono prelevare soldi in contanti da questa carta oppure la devi usare solo per fare la spesa, Natali? In contanti solo 100 euro puoi prelevare, dopo devi fare la spesa con i restanti, capito? La svuoti così, io infatti è per quello che la uso, mi faccio la spesa e boom. Metto quei 100 euro in contanti che puoi togliere e basta, non ne puoi togliere altri, è tutta una fregatura. Natali, scusa un attimo che sto scendendo giù, mi ha suonato il corriere. Sì, ok. Guarda, già guardo quel cavolo di... foglio della catenza, che quello già me l'avevo conservato, adesso domani lo cerco dove ci avevo messo. C'è stato nella cartella verde. Sì, cercalo che magari ci serve, cazzo, perché a me non me li ha chiesti, a me e a un altro amico pure che siamo andati assieme. Sì, ho capito. Sì, ma lo cerco. Allora, giocare. Avevo detto cazzo che in pratica davano anche dicembre e invece ho aspettato il 27 finché l'avevo telefonato e tu dice a lei gli è scaduta a novembre del maledetto, quindi ha fatto 18 mesi e non le tocca niente, e non potevate mandarmi un messaggio, gli ho detto, via telefono, ho capito, boh. Allora? So che no. Entrato sì. Stavo movimentando roba qua. Ma siete spariti tutti, avete chiuso? No, Carlo è andato giù, che è arrivato il corriere. E io sono qua. Antonello stava cercando dei documenti. Sì, anche con la madre mattina, faccio un giro di cose, dentro l'appartamento già lo trovo quel foglio, me lo ricordo di averlo visto l'altra volta. Mi ho tirato due Baofeng, 2,50, la temo, bisogna vedere se arrivano, cosa ne so, se non arrivano se la piglia in culo. Sì. Io ho acceso questo apparato che non usavo dall'estate scorsa, era stato usato l'ultima volta in barra mobile e da allora non è stato mai acceso, non quest'estate, l'altra ancora, era tutto impolverato, l'ho pulito eccetera, stavo guardando le stazionali SVR e qua sono massimo meno di 1,2, 1,15 dai, ma perché c'ha 11 watt, portante muta. Ditemi se sta andando bene di modulazione, se ha qualche difetto. Negativo, nessun difetto. Eia, questo è il fratello maggiore di quello piccolino che uso abitualmente. Di solito uso il President Taylor quarto, no? Quello piccolo, questo un po' meno piccolo, sempre MFM, un po' più spinto, diciamo, dai, qualche opzione di più. E va bene. Serve Cocomani. Vai, Cocomani sei tu, è anche troioso e boioso. Ecco, così impari. Quando usai? Sì, anche io so. Ciao Luca. Ciao Luca Rie. Che mi ha salutato la Radio Cuppa, chi è? Oh, io non credo. Ciao Luca, ben sentito. Pompugno, no, chi c'è qua? Boh, comunque ciao, chi c'è? Ciao Luca Carlo. Sarò io con la Radio Cuppa. Vedi un po'. No, tu no, l'altro chi era? Carlo. Aspettate una volta, chi è? Carlo? Ehi, ciao Luca, ben sentito. Carlo ha ascoltato un po' cupo di radio. Comunque ciao a tutti, dai. Non so se sto andando bene io, boh, perché l'altro giorno avevo problemi. Praticamente non saliva lo smitter, boh, ho trovato il capo. Anzi, aspetta, a proposito. Lascia vedere. Non sei a posto, lascia vedere. Scusate. Cercavo lo spezzone. A posto sono, sì. A postissimo, Luca, una bomba. E la mia antenna che è un po' diventata ballerina, eh. Perché c'è uno smitter che mi saliva di meno? Quando c'è qualcosa che non va, lo segna qua, eh. Lascia a posto, dai. Ma c'è pure quel troioso di Natalino, c'è. Non so, anche quel troioso di Pomponio. Ah, ma poi è un buco. Allora, da d'ora in poi lo chiamiamo Pompocu. Ah, Carlo, per la radio definita un po' cupa. Allora, tutti quegli apparecchi escono sempre col trimmer un po' chiuso, no? Io il mio gliel'avevo aumentato appena, quello della M. E ti assicuro che a livelli di potenza, di tutto, anche di tono, si schiarisce di più. Diciamo che proprio la modulazione decolla. Decolla, no? Per rimanere in tema. Vai Carlo. Sarà sì, qualcosa che gli farò per individuare il trimmer in questione, si alza un pochettino e dovrei risolvere. Però per me nessun problema, io ancora ti copio un po', siamo vicini, quindi meno male l'effetto chiarezza c'è ancora, sì, un po' toni bassi, da un po' più bassi è tutto lì. Volendo gli puoi mettere quell'adattatore microfonico, lo vendono anche già pronto, volendo gli puoi mettere l'MV+5, microfoni normali, un sacco, ti puoi sbizzarrire, dai. Io l'avevo comprato ma lo uso ben poco e poi ho scoperto che era compatibile con altri apparati che avevo e non sapevo fosse compatibile, quindi quello vale oro. L'avevo comprato fatto da Boh, non mi ricordo se era Media Globe o chi era, boh. Ho capito, e si tratta di, insomma, mettersi d'impegno e vedere quale ci va meglio. Sì, io Luca lo sento bene, forte e chiaro, come sempre. Luca, una bomba. Sì, no, vabbè, avevo problemi su uno spezzone, ho toccato di nuovo il PL, e sono a posto, dai. Praticamente lo smith mi saliva a 9, invece adesso è oltre il 9. E da lì mi accorgo, se scende vuol dire c'è qualcosa che non fa. Vabbè, era meglio così. La radio va bene, perché sono un po' che non cambiamo con la batteria. Va benissimo, forse è chiaro qua da me. Andava, era, anche tu sei a fondo scala. La radio è un po' diversa dall'altra volta. Può darsi, perché avevo il cavo scollegato e praticamente era finito sotto un sacco di materiale, non vorrei che magari lo hanno schiacciato un pochettino, non lo so, devo salire sul tetto e vedere, perché c'erano tegole e quant'altro. A proposito, Natalino? Niente, vabbè, dopo glielo dico. Va bene, riprendete, fate girare che io vado a bere. Vabbè, bene, vai, adesso sto usando il 140, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tu quello hai? Sì, è avuto questo. Quando avevo venduto quei due apparecchi, il Saturneco e l'altro, avevo preso il 140, come va? Natali, Antonello, il 140 dovrebbe uscire molto meglio di così, dovrebbe uscire come il 140, lì che dire, microfono normale sto usando. Ah, e dillo allora, dai, microfono normale abominevole, io mi ricordo che mi trovavo parecchio male, poi quello era particolarmente brutto, usciva male proprio. Con l'MC60 già è una radio degna, dai, degna. Comunque non ti preoccupare, la comprensibilità c'è, è che vabbè. Guarda, uno dei migliori che sento è Natalino, quando mette il mic da tavolo, che non c'è la TV però. E anche Luca, vabbè, Luca magari parla con tonalità molto alta. E quindi sembra sempre a bordo, dimmi Luca. Riprendi Luca. Dottore, questo. Cos'è quel rumore di peli? Da c'è la parola, stavo ascoltando, l'altra è accesso. Sembra il gioco della cazzetta. Io a Poletto mi passavo il microfono tra i capelli, piano piano, premendo, e lui è stasiato, poveraccio, chissà quanto si annoia lui. Riprendi Carlo, è un bianco per me che stacco anche lo strumento qua. Eia, e quindi la modulazione mia ti sembra diversa, Luca? Adesso lo prova. 1, 2, 3, prova radio, 4, 5, 6. Diciamo che non è la tua solita, ecco. Però non è male, dai. Forse l'altra radio, era abituata all'altra radio che ti sei bruciato. Può darsi che l'altra era più in campana rispetto a questa. Questa magari come modulazione un pochettino di meno, però diciamo come radio è più prestante questa dell'altra. Pari positivo. Sì. Avanti. Sto usando l'MB più 5, vada un po', va bene con la modulazione. Luca, mi ascolti? Aspetta che sono alle prese con un telefono, aspetta, sì, ti ascolto bene. Riprendi un attimo, che ho il telefono in mano, lo sto aprendo, dai, riprendi Natali. Dai, fai un altro passaggio, Antone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sto usando l'MB più 5, quello che mi è stato dato. Bene, come radio? Va benissimo, io ti sento forte e chiaro, si sente che questo è amplificato. Meglio così, sono contenta. Si sente anche forse qualche ventolina in sottofondo, invece prima non la sentivo, però diciamo è chiaro che ti prende anche i rumori di fondo questo, l'altro no. È la ventola da alimentatore che c'è sotto. Anch'io la sento, ma sì, sì, ma va benissimo, poi tu qua arrivi forte, figurati, e anche la radio cioè sia il segnale che la radio qua è tutto OK. Oh Antonè, stavo notando che la mia antenna è come se si fosse elettricamente un po' allungata. Io sono sicuro che sopra il cavo l'hanno messo tutto annodato, stretto, legato, cosa ne so, in modo da non stare in mezzo, perché ho notato variazioni, o falsi contatti in arrivo, variazioni. Tant'è che se vai come sempre ai soliti 40 sotto, lì c'è il punto di massima accordatura, tipo sul 20 sotto, è tornata come non poi in origine. Infatti dopo che sarà finito tutto questo tran tran salgo su, il cavo lo faccio scendere bello normale, senza spirali strette, capito? Non, a parte non va curvato più di tanto il cavo coassiale, se no dà delle variazioni, capito? E quindi l'impressione è che sia leggermente lunga l'antenna, e quindi mi risuona più sui canali bassi che non quelli alti. Ho capito. Comunque penso che sia lunga la sua antenna, perché lo stiletto l'avevamo stretto, la statua, eccetera eccetera, c'è quella vite esagonale, quella che può esagonale, quindi senz'altro capranno magari curvato il cavo, messo una spirale sopallata e quindi ti ha cambiato leggermente l'impedenza. A meno che l'antenna non cresca come l'albero, man mano che passano gli anni diventa più lunga, boh. No, non credo. Magari, non lo so, non toccava però, Avevo avuto stazionari e, vabbè, il palo siamo da parecchio tempo che non lo tocchi, quindi magari potrebbe essere ben giustinato. Dice un palo della vampa, ma per dire che è mezzo vicinoso adesso, quando ho sistemato bene tutta quanta la vampa, vado su con la carta abrasiva e passo il palo con la carta abrasiva passo. Dopodiché ripiazzo nuovo la mandorla e esco come prima, li metto il radiale che mancava e la lascio finché dura. Poi quando scende dal fumo la mandorla, voglio dire che ci piazzerò nuovo questa energy, ma la conservo questa, capito? La metto a parte. Il percaccio va entro la guardia tua, ma senza radiali, capito? E anche se io preferirei, Antonè, se proprio devo pulire il palo, pulirlo solo con un diluente, qualcosa che pulisca il palo, capito? Lo pulisca, lo sgrassi, ma non a grattare via lo strato, lo zinco, come sia, anticorrosione. Se levi quello poi si arrovinisce in un attimo, capito? No, io rimane all'interno della base quel pezzo, capito? Quindi non succede nulla. Se no riduce come l'alluminio, l'alluminio già conduce, non mi costa niente, dove mi passano una passata di vernice alluminio già tiene, a voglia. Eia, vediamo se Natalino è rientrato o se sta cucinando. Natalino, ci sei? Oggi si sta facendo prezioso, riprendi Carlo, ti puoi fare girare per Luca. Sì, Natalino c'era prima e evidentemente o è arrivata l'ora di cena per lui e niente, già si farà sentire, sicuramente è in ascolto. Va bene, io devo uscire tra un attimo a fare una commissione, quindi ne approfitto per salutarvi, grazie del piccolo QSO, se non ci dovessimo sentire, buon anno a tutti, dai, ci sentiamo sicuramente il prossimo anno, già ci manca poco. Ciao Marco, ciao Antonello, ciao Luca, ciao Natalino, se sei in ascolto, ascolto il vostro finale, poi devo uscire, ce la risentiamo e buon anno a tutti. Ciao Carlo, ciao, buon tutto, buon anno, se non ci sentiamo alle prossime, dai, riprenda chi vuole riprendere che c'è gente qua e non posso stare all'apparato. Cappa, e io Natali, ciao Carlo, dai, buon anno anche a te, se non ci sentiamo prima, ci sentiamo, sì, l'anno prossimo, hai detto bene. Io già me ne sto a casa a disintossicarmi e a rimettermi. Vai Luca per i saluti. Sì, dai, ciao Carlo, saluto di buon anno anche a te. A te fa... famiglia, alla prossima, ciao ciao, avanti, buon po'. Ciao Carlo, ci sentiamo, buon anno, non c'è problema, noi già ci sentiamo, limite 2, ok, alla prossima, avanti, dunque la tariffa della Corea, siamo io, Luca, Marco, e io. Vediamo chi altri c'era per salutare Carlo. Non poca roba. Fra poco anch'io attendo gente che ci porta la spesa. E questo me lo fa parlando, lo sai. Quando parlo molto, ci siamo già da un po' in radio, mi viene il pizzicore e mi viene a tossire, guarda, è fastidiosissimo. Ah, vabbè, quello perché c'è un asciutto un po'. Mi viene il pizzicore piccolino. E anche fastidio a quello. Via, mi sto bevendo quantità industriali d'acqua per depurarmi, niente bibite, niente porcherie, non voglio più vedere né pane d'oro, né panettone, né dattili, né... Nulla, non voglio vedere nulla, guarda, dopo quello che dopo il Natale che ho passato. Ah, vabbè. Ma io già. La casa Giovanna, sono stato lì fino alle 1:30, alle 2:30. Poi sono salito a dormire. Eia, da Giovanna eri, quindi vabbè, si è chiato fratello, Giovanna, i figli, eccetera, eccetera. Poi non so se Giovanna ci abbia un nuovo. Boyfriend. C'era anche il suo fidanzato, c'era anche lui, infatti. E Simona si può muovere da letto? Sì, c'è anche lei, ci vuole scendere. Meglio così, se no essere isolati da una parte è brutto. E comunque Natale a me, vabbè, io non è che lo festeggio, cioè non... Sapete che sono anche poco credente, per non dire quasi nulla, per non dire nulla. Quindi per me non è che significhi molto. Sì, cosa vuol dire? Mangiare, bere, ritrovarsi con parenti, però per la sacralità del Natale, non è che a mezzanotte vado alla messa, ma non ti innandi. Fai bene, sono rientrato e che c'avevo gente. Sì, quello che ti volevo dire, Natalia, non messo i marmetti qua, non però... c'erano delle specie di ante con la rete, no? Sai, per non far uscire i gatti o per non farne entrare da fuori e però far passare l'aria, no? E c'erano due vitine che tenevano dei cardinetti piccolini, no? Che posso sostituire così, ma non è che hanno bussato, non c'era, c'era un cacciavite che le smontiamo, io non sapevo che le dovessero togliere. Potremmo dire, se avete un cacciavite che le svitiamo, due viti là, e togliamo. No, a strazzadura, come dici tu, a strazzadura. Ma come? Vabbè, loro sono abituati a lavorare così, e così. I muratori quando vogliono fare non è che chiedono, no, sfasciano e mettono, poi si vedrà. Tu, come? Tu che ho detto! Ho capito, ori, prima il PTT e dopo parli. Ho detto tu che ho detto questi qui. No vabbè, diciamo che lo fanno tutti, ma cosa costava chiedere? Ce l'ha un cacciavite? Prego, a taglio, a croce, a storks, a brugola, come lo vuole glielo do. Poi c'è, no, così a spazzatura non va bene, cioè chiedi almeno, no, sono qua. Infatti, poi è dovere loro avere il cacciavite o gli attrezzi che servono per fare queste cose, non a trattandura. Ma dimmi tu, cazzo, gente brutta. No, anzi, meno male che non hanno tagliato e rotto i telaietti. Meno male quello, vabbè, comunque hanno messo i marmetti, adesso forse ci salviamo per il termine. Anche se mi 31 è domenica, 31 fine i giochi, a meno che il governo, che ho sentito dire che ha fatto delle proroghe o delle cose, o non ho capito cosa ha fatto, perché poi leggi è scritto in burocratese e quindi è ingannevole anche quello. Comunque è una maledizione, quando si hanno, soprattutto rifacimenti totali di palazzi, è una maledizione avere gli operai fuori. bene, sempre qualche danno lo fanno, piccolo, medio, grande, però poi sai questo stagliare, segare, battere a bordi tutto il giorno, poi perché non si prendono quelle cuffie di microfono piccoline? Ci sono le cose importanti che c'erano tutti, con le cuffiette, con le box, costano una cazzata, e loro lavorano quelli. No, figurate se, non so, basterebbe un PMR con il microfono in cuffie, però poi sai, cominci, se vuoi proprio gli accessori buoni, devi prendere Midland tipo, no? E già la Midland te li fa pagare a botte di 100 euro. Cioè sia portatili che il kit, poi il kit cuffia e microfono è a parte, capito? È a parte, mica te lo danno in confezione col portatile. Se no, bau bau, cuffia e microfono di serie, hai visto quell'auricolare lì? È già risolto. Ah beh, quello sì. No, io già ce li ho ancora. Ne ho due qui, poi ne ho altri due giù, di quei portatili, quindi, da Giovanna, ne ho quattro, più due, più cinque di più, sono sei. Ti dirò di più, che una volta ho sentito un'impresa che lavorava con i PMR, non so se avessero le cuffie, però per evitare di stare a voci, poi da anche zone che non si sentono, proprio loro dicevano, arregga l'impaccio, portami quello, porta quell'altro, capito? Via radio, il PMR, una volta solo li ho sentiti, sarà stata qualche impresa più grossa, cosa ne so io, lì fuori magari. Ah no, già c'era gente distratta, invece sono quelli dell'aereo, io carico il carbone, oppure quello che installa i impianti telefonici, capito, con la gru, quindi figurati. È un PMR anche robusto e valido per tutti i lavori, lo vedo alle tipo guardie giurate, anche alle ambulanze, certi ce l'hanno per parlare solo dalle unità, cioè dal personale all'ambulanza, i Polmar Work 3, non Digital Work, Work 3. Sono, mi pare, impermeabili più o meno, adesso IP qualcosa, non mi ricordo, un po' più robustelli, quelli vanno bene anche per dire per cantiere, se c'è un minimo di certo, se ti ingaggi nel cemento fresco, addio, ce lo devi buttare. Comunque c'è gente che sta facendo UDX in PMR su dal Veneto in giù, perché porta tanti nomi che ti stai facendo, se ne va in alto, si porta e portate e fanno le prove, stanno facendo su Facebook. Si è fatto dal Veneto in alto fino ad arrivare a Capodistria. E lì hanno delle belle cime, delle belle alture. Caspita, puoi fare un sacco di roba. Oppure, va bene, in estate puoi approfittare di zone un po' meno alte, però la propagazione è troposferica. E c'era anche un sito che ti faceva vedere la mappa dell'Europa, se scegli l'Europa, e rivedere il Mediterraneo, lì i bordi con le coste diventano tutti violetti, no? In base alle violette vuol dire massima propagazione troposferica oppure estrema, capito? In base alla colorazione è più forte la cosa e ti farà tunnel, riesci a fare di ex notevoli, certo devi stare un po' in alto, se non fosse non andi a lungo. Io lo so, è così. Tu cavi predica. Aspetta che sto misurando un interruttore, aspetta. D'accordo, non c'è problema. Allora non aspettiamo mai perché ci mandi qualche missile cosa lì. Che mi giungo. Sì, poi vabbè Antonio, quando ci sarò un po' meglio, se no ci pigliamo una birretta da qualche parte, quel bar lì del distributore già è aperto, sì, sempre, a parte le feste dico. anche sull'ultima volta c'era una ragazza, c'era una faccia che, mamma mia, ma sembra che ti stiamo facendo un favore, e lì dipende dal personale che metti. Quella di cosa? Di Lupino, la Lupino, c'è, penso c'è uno che ha due tette che ci può mungere un asino. Se tu ti calmi, mio, se che dopo me ne imbriaghezzo. Ciao, Tom. Ciao dottore, eia, Antonello mi porta nella perdizione, ma io già mi mangio un sacchetto di patatine con la birra, almeno non mi crepa, perché io sono quasi astemio, Buonasera, avanti. Buonasera a tutti. Anche quell'altro che ha ticchiato. Cosa vuoi fare se quello lì dopo me lo riempie di patatine e birra, arrivederci, ti dà numeri. Ormai c'è entrato una cosa, una Cristia c'è, non c'è entrato domani. L'altra volta sono andato, ero lì. Dopo andato là sono diventato alle 5:30, tipo dove. Aspetta, ma cosa fai? Una trombetta vai, ma microfono. No, perché? Mi sembra come una trombetta la parte mia, boh! Ma ricordo è così, non è una trombetta. A me non sentite le visioni della camera di Simona. E forse è la camera che te lo sta facendo. Ma, come un po' gli ho accennato stasera, Antonè, quello c'è una timbrica, sembra che la voce esca da, è presente qui, come cosa ha detto la tromba, mi ha ricordato, come si chiamano qui i giradischi a tromba, che non mi viene, già capito, che si è riprodotto la tua voce da quelle, da quei grammofoni miei, ecco, da quei grammofoni antichi, o sbaglio tu? Quello che ti sto dicendo, pare che va già una trombetta, c'è un trombone veramente, anche, no, è più fine, sembra la voce di, che esca da una tromba. Bene, adesso non mi sento in bassi, com'è? Va meglio? No, adesso l'è peggiorata, dai. È peggiorata. E adesso, guarda un po', sono a metà. Poi finirà, poi argomenti la torre allora. Era più comprensiva prima. Ma è proprio... Non mi piace come... Mi sento proprio come che se fosse dentro una tromba. Aspetta. Guarda, poi adesso si è migliorato 3-4. Lasciala così. Lasciala così. Va bene, va bene. Ho passato... Mi ero accorto che c'avevo... Si è andato 30 watt. Ecco perché adesso sono, l'ho abbassato, sono 20, quasi 40. Antone, se per caso dovessi avere qualche autoascolto attivo o un baracchino che ti riceve, in cui ti ricevi, spegnilo. No, già sono tutti spenti gli apparecchi, grazie a Dio. Se due nove è spento, l'altro è, ce l'ho sopra, quindi no, l'unica cosa che ho è la camera da letto, che siccome la sto guardando la TV. Il Natale è andato, adesso tocca al Capodanno, io sono stato incidentato, diciamo, tra virgolette, a Natale, quindi mi sto disintossicando. No, io sono tranquillo. Sono tranquillo e mi sto rilassando. Tanto me la devo passare a casa perché non posso lasciare neanche il cane da solo. A dito con i petardi si trema tutto quanto. C'è anche Natalino all'ascolto, credo. Se può parlare. Natalino, riprendi che vado a bere. Eia, già posso parlare. Te l'ho detto che c'avevo gente. E adesso se n'è andato quella persona. E quindi già posso parlare adesso. Ciao dottore, ben sentito. Sì, ciao Natalino. E allora, tutto bene? Tutto è bene, quel che finisce bene.